scusi un attimo, lei comprerebbe mai un maglione da formigoni? Il formaglione lo comprerebbe? Ma sa cos'è? Sono i gusti di formigoni che mi lasciano perplesso. Cioè? Io non porto il rosa, il celestino, no? Allora, e il maglione nero? Il maglione nero? Lui non li ha. Lei è più classico, diciamo, no? Bravo. Ma i maglioni, quel maglione nero, eccetera, è una cosa terribile. No, no, che maglione nero? Quello suo, là, che ha messo... Io ho un cashmere azzurro che lei, guarda, se lo sogna. Ah, lei ha un cashmere. Favoloso. Quanto costano i cashmere? Sacco di soldi. Guardi, mi è stato regalato, purtroppo da troppi anni, un po' sformato, però mi creda, un azzurro chic. Favoloso. Altro che i golf di formigoni. No, quelli no, lui ha la capacità di portare abiti che io neanche di notte sono capace di portare. Ma nessuno. Scusi, ma lei non indossa, piuttosto va in giro nudo piuttosto che indossare le camicie di formigoni? Sarebbe veramente un esempio di uomo straordinario. Quale, dice lei, andare in giro nudo? Meglio creda, quello che indossare... Mi creda sulla parola. In che senso, scusi? C'è tutto il perché. Ha un bel petto, c'è, diciamo. Tutto il quid. Ah, lei ha tutto il quid, diciamo. Lei da quel punto di vista non ha nulla da invidiare a, come dire, ai modelli, no? No, ma taglie forti, ma i modelli ci sono. I modelli ci sono. Beh, insomma, sei contento di saperlo, Parenzo?